Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Settimana di 4 giorni per ridurre i costi dell'energia, ci stanno pensando sia aziende private sia enti pubblici. Tra le proposte un giorno di smart working o giornate lavorative di 9 ore invece di 8. 65.000 poveri in regione, il numero salirà, l'allarme della CGIL che dipinge un quadro fosco delle emergenze sociali, i più esposti, gli anziani non autosufficienti, i giovani, le famiglie numerose. Incendi boschivi, da un vertice in prefettura la decisione di avviare un tavolo tecnico della regione con Rete Ferroviaria Italiana, il primo si riunirà in novembre. Vanno attualizzati gli accordi per impedire il propagarsi degli incendi delle linee ferrate. 10 milioni al comune di Trieste per acquistare l'ex caserma di via Rossetti, dove sorgerà il nuovo polo scolastico. Lo stanziamento è stato inserito nell'assestamento di bilancio autunnale della regione. Gorizia e Nova Gorizia ancora più unite con la nuova passerella sull'Isonzo, inaugurato con una festa e con decine di biciclette e podisti, il passaggio ciclopedonale di Salcano. Ha perseguitato per mesi una donna a Trieste, stalker ultra sessantenne arrestato sotto la casa della sua vittima, che continuava a minacciare nonostante la presenza dei carabinieri. Monfalcone, città turistica, ristori Covid più alti per ristoranti e alberghi, l'Istat inserisce il comune fra le località a vocazione marittima. Ciclismo, argento per Jonathan Milan nell'inseguimento ai mondiali su pista, il bugliese chiude dietro l'altro azzurro Ganna che fa il record del mondo. Basket, Trieste cerca stasera l'impresa in casa contro la Rei, Arena 2 Cividale ospita Ravenna. Buongiorno da Andrea Saule e Francesca Vigori. In apertura del nostro giornale diamo uno sguardo al tempo. Il cielo è nuvoloso su tutta la regione, le temperature a Trieste 16 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 21 gradi, a Gorizia 11, a Udine Pordenone 13 gradi, a Tolmezzo 12 gradi, a Forni di Sopra 9, a Tarvisio 8, a Piancavallo e Sappada 7 gradi, sul Monte Lussari 5 gradi, sul Monte Zoncolan 6, a Grado e Lignano 16 gradi, la temperatura del mare è di 20 gradi. Queste invece le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Per oggi sulla costa cielo poco nuvoloso con deboli venti di brezza, in pianura cielo in genere variabile, sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso, su tutta la regione diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio. La proposta di adottare la settimana corta negli uffici per risparmiare sulle bollette interessa anche alcune pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia. La stanno valutando la regione e alcuni dei comuni capoluogo. Sentiamo. Il risparmio energetico passa anche per l'organizzazione del lavoro. Regione e comuni si stanno muovendo in questo senso contro il caro bollette. In tempi brevi arriveremo a una soluzione, dichiara l'assessore regionale alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti, per esempio concentrando in una sola giornata lo smart working, in modo da poter chiudere alcuni uffici un giorno in più a settimana, senza però far venir meno i servizi ai cittadini. Discorso simile a Udine, dove l'assessore al personale Fabrizio Cigolot afferma che il comune sta predisponendo un piano per una settimana corta di 4 giorni in presenza negli uffici, più una giornata di telelavoro. A Trieste mercoledì si è tenuto un incontro tra l'assessore all'organizzazione degli uffici Stefano Avian e il direttore generale del personale, ma in questo caso si attendono dati certi sui risparmi potenziali, dati che il comune di Gorizia invece ha già. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha presentato un piano che prevede il 10% di risparmio di energia, senza però l'adozione dello smart working. Mentre a Pordenone ci saranno i ponti obbligatori con il personale in vacanza nei giorni feriali intrafestivi, spiega il primo cittadino Alessandro Ciriani. La proposta, nata da Banca Intesa San Paolo, di adottare la settimana corta in ottica di risparmio energetico sta insomma facendo scuola, più nel pubblico che nel privato però, perché le grandi aziende, da Fincantieri a Generali, rimangono caute. Possibilisti invece i sindacati. William Pezzetta, segretario generale CGIL FVG. Noi siamo disponibili a discutere e a fare anche accordi sul tema del risparmio del caro bollette nelle imprese, anche attraverso accordi su orario di lavoro organizzato. Attenzione però, qua mi riferisco anche nello specifico a smart working o altre forme, che però non deve essere un percorso che poi scarichi sui lavoratori costi economici, questo assolutamente no, l'azienda su questo deve fare la propria parte. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Qualcosa di nuovo sta succedendo nel mercato del lavoro? Da una parte i lavoratori che mancano, dall'altra la necessità delle aziende di trattenerli offrendo non solo buoni stipendi ma anche benefit come il welfare aziendale. A guardarlo con interesse oggi anche artigiani e commercianti. Se fino a pochi mesi fa ai recruiting day si presentavano meno persone dei posti disponibili, oggi no, le candidature sono tantissime, ma di persone che già hanno un'occupazione ma si guardano attorno. Nicola Manfren, direttore direzione lavoro, Friuli Venezia Giulia. I giovani sono attenti ad altri elementi, ad altri aspetti, alla dinamica dell'azienda, alle possibilità di crescita e anche a strumenti quale il welfare aziendale che li attira verso quella determinata impresa ed è uno strumento molto efficace anche per fidelizzare il collaboratore. Welfare aziendale conviene all'impresa e anche al lavoratore. Vediamo un esempio: se dei soldi vengono dati in busta paga oppure sotto forma di welfare e diventano servizi. Erika Damiani, presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro. 100 euro vengono erogate, la spesa del datore di lavoro, quindi il costo del datore di lavoro sarà di 130 e quello che arriva in busta paga al dipendente è 80. Mentre con il welfare? Erogo 100, datore di lavoro, incassa 100 il lavoratore. Le grandi aziende da tempo lo stanno facendo, ci stupisce che ora a pensarci siano anche i piccoli. Un bar di Trieste, per esempio, ha offerto un'assicurazione sanitaria privata ai dipendenti. Preferisco questo perché sì, apparentemente non ho l'opportunità di ricevere un aumento di stipendio, ma contemporaneamente in realtà ho un grande risparmio su delle spese importanti, soprattutto dentisti o eventuali altre spese che potrebbero incorrere. La diffusione di polizze sanitarie private non dimostra una sfiducia nel sistema sanitario pubblico? No, non lo credo assolutamente. È uno strumento di welfare al pari di altri strumenti. Ancora pochi gli artigiani e commercianti che conoscono questi strumenti, ma anche perché il consulente sul lavoro viene chiamato solo quando ci sono problemi. Un peccato questo. Sicuramente, perché poi gli strumenti che possono essere, diciamo, ordinari come questo del welfare non vengono proposti, o vengono proposti appena in un momento successivo rispetto all'inizio del rapporto. Trieste, Navitariani, TGR Friuli Venezia Giulia. Appuntamento importante oggi per il Partito Democratico regionale, si riunisce alle 14 al meeting point di Palmanova l'assemblea regionale del PD chiamata a pronunciarsi sulla successione del segretario dimissionario Cristiano Sciaurli. Si discuterà anche delle scadenze elettorali del prossimo anno. La CGIL chiede misure urgenti per contrastare la povertà, una condizione nella quale si trova un numero crescente di persone anche a causa dei costi dell'energia. Salgono le bollette, cresce il costo della vita e sempre più famiglie in Friuli Venezia Giulia rischiano di finire in povertà. Ne ha discusso la CGIL a un convegno organizzato a Cividale del Friuli. Secondo le stime, a fine 2021 erano quasi 100.000 i residenti della regione in povertà relativa e 65.000 quelli in povertà assoluta. Numeri in leggero calo rispetto agli anni precedenti, ma che ora, di fronte ai rincari, rischiano di salire in modo preoccupante. Tra le fasce più esposte ci sono le famiglie numerose e i giovani, che subiscono i primi segnali di difficoltà del tessuto produttivo. Ma a pagare di più sono gli anziani. Per loro, all'emergenza reddituale, si somma lo stato di precarietà dovuto all'invecchiamento. Gino Dorigo, Dipartimento Welfare della CGIL. Più avanti va il tempo e più questa precarietà si manifesta. Quindi c'è un problema di cronicità, di tutti i problemi della non autosufficienza, della disabilità che sono legati a questa condizione che, passando gli anni, si manifesta sempre di più. In Friuli Venezia Giulia più di un pensionato su tre non supera i 1.000 euro netti di pensione e il dato peggiora tra le donne, dove solo la metà supera questa cifra. Secondo la CGIL bisogna mettere in campo in tempi rapidi misure adeguate per contrastare la povertà. L'inverno è alle porte e dicono bisogna fare in fretta. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Incidenza dei casi, indice di trasmissibilità RT e ricoveri ospedalieri, i tre parametri che rappresentano il termometro dell'andamento dell'epidemia di Covid, segnano questa settimana un nuovo balzo e salgono da 4 a 6 le regioni dove l'occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid ha superato la soglia di allerta del 15%, tra queste il Friuli Venezia Giulia, dove la percentuale è del 17,5%. Il monitoraggio settimanale settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute evidenzia numeri e curve che si confermano in risalita. Resta comunque ben al di sotto della soglia critica il tasso di occupazione delle terapie intensive. Rete Ferroviaria Italiana siederà a un tavolo tecnico con la Regione, il primo è già stato fissato per novembre per evitare che si ripetano gli scenari degli incendi boschivi che hanno distrutto ettari di Carso Triestino e Goriziano e messo a rischio tante abitazioni quest'estate. A renderlo noto la Prefettura di Trieste, dove in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile il prefetto Annunziato Vardè ha incontrato il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale, i sindaci e i responsabili della Protezione Civile dei comuni dell'ex provincia per fare il punto sulle iniziative necessarie a prevenire gli incendi boschivi, oltre che l'emergenza di natura idrogeologica. Si è deciso dunque di attualizzare i contenuti degli accordi vigenti tra la Regione ed RFI, che prevedono interventi preventivi utili a impedire il propagarsi degli incendi dalle linee ferrate. A tal fine si è concordato di istituire presso la Regione un tavolo tecnico congiunto tra Direzione Foreste della Regione ed RFI per individuare i rispettivi interventi finalizzati a eliminare i fattori che costituiscono possibili concause dell'innesco e della diffusione degli incendi boschivi. Nell'assestamento di bilancio sarà inserito uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore del Comune di Trieste per consentire l'acquisto dell'ex caserma Vittorio Emanuele III di Via Rossetti, dove sorgerà il nuovo polo scolastico, l'ha annunciato l'assessore Roberti, che aggiunge che si tratta di un passaggio importante che consente di dare risposte alle necessità del sistema scolastico triestino sia nel medio-breve periodo sia a lungo termine. Oltre ai fondi destinati all'acquisto del complesso, che dopo anni di completo abbandono verrà completamente riqualificato, rivitalizzando così anche l'intera area urbana limitrofa, sono stati ridestinati al Comune di Trieste anche 5 milioni di euro già concessi nel 2019. Una festa transfrontaliera per inaugurare a Salcano la passerella ciclopedonale sospesa sull'Isonzo e costruita con i fondi Interreg. Associazione di ciclisti, alpinisti appassionati di trekking e tantissimi semplici cittadini felicissimi di poter attraversare l'Isonzo o la Socia in totale sicurezza con la nuova passerella ciclopedonale a Salcano in Slovenia. Un ponte sospeso di 120 metri finanziato con 2 milioni di fondi Interreg che collega le ciclabili e i sentieri che lungo l'Isonzo portano dalle Alpi all'Adriatico, ma soprattutto attraversano il confine per decenni di vita. La passerella completa di fatto la mobilità ciclopedonale urbana tra Gorizia e Nova Gorizia, città che viaggiano ormai a vele spiegate verso la capitale europea della cultura del 2025. Il terzo ponte sull'Isonzo, la cui realizzazione è stata gestita dal GECT Gorizia, rappresenta soprattutto un simbolo di collegamento e cooperazione di un territorio diviso per decenni dalla storia, è stato detto dai sindaci di Gorizia e Nova Gorizia, Ziberna e Miklavic. Una conquista per l'intero territorio gorinziano, dice Paolo Petiziol, presidente del GECT. È un po' il riassunto della nostra storia. Abbiamo la passerella fatta in Slovenia oggi, abbiamo il ponte stradale che è stato fatto dall'Italia fra le due guerre e in fondo, capolavoro di architettura, abbiamo ancora il ponte austro-ungarico. Credo che chi ha una visione di questo tipo può capire cosa veramente stiamo festeggiando. Gorizia, Nada, Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da lunedì Rita Febretti, proveniente dalla questura di Monza, Brianza, assumerà l'incarico di dirigente della Digos di Trieste in sostituzione di Fabio Zampaglione, destinato alla direzione della Digos di Bari. Uno stalker è stato arrestato a Trieste dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 63 anni di origini croate. Avrebbe perseguitato con messaggi e telefonate una donna che ha riferito di aver subito anche una serie di molestie anonime, come continui suoni al citofono, lettere non firmate, mastice nella serratura della porta di casa. Dopo che la donna si è presentata in una caserma dell'arma per denunciare i fatti che proseguivano da alcuni mesi, i militari, la sera stessa della denuncia, hanno trovato l'uomo davanti all'abitazione della donna ad aspettarla e sono intervenuti per bloccarne ogni azione. Anche in loro presenza, infatti, lo stalker ha continuato ad assillare e a minacciare la donna. L'uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato, condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari, con il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima. Arrestati dalla Polizia di Stato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un italiano e un rumeno che hanno attraversato il confine a Gorizia portando 32 persone stipate in un furgone. Il primo è stato sorpreso dalla Polizia di Frontiera nei pressi dell'ex valico confinario della Casa Rossa. Guidava un furgone con a bordo 32 persone di origine asiatica di età compresa tra i 20 e i 35 anni, privi di documenti. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti. Il rumeno invece era entrato in Italia insieme al furgone a bordo di un'autovettura con funzioni di staffetta. Anche lui, dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato poco distante da due operatori di polizia di frontiera. Monfalcone si scopre turistica, lo dice l'Istat e anche i numeri, quasi 200.000 presenze lo scorso anno. Sentiamo il servizio. Monfalcone, città dei cantieri? Non più, o meglio, non solo. L'Istat l'ha inserita nella ristretta cerchia delle città turistiche a vocazione marittima, al pari di Muggia, Latisana, Muzzana e Palazzolo dello Stella. L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato sul proprio sito web a gennaio la revisione della classificazione dei comuni italiani, così come gli era stato richiesto da una legge del 2020, governo Conte, nell'ottica di stabilire quanti fondi dare ad alberghi, ristoranti e commercianti colpiti dalla crisi pandemica. Più alto il punteggio nelle categorie previste, più alti i ristori. La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha convocato una conferenza stampa in comune per sottolineare come questo riconoscimento dell'Istat sia frutto del lavoro della sua giunta negli ultimi anni. L'anno scorso Monfalcone ha registrato 193.450 presenze turistiche e si stima di raggiungere le 220.000 entro la fine di quest'anno. Dalla classifica Istat emerge che la domanda turistica a Monfalcone è molto alta, ma che ci sono poche attività economiche connesse al turismo. Su questo Cisint sollecita maggiormente pubblici e privati a investire sulla città perché è un terreno particolarmente fertile, senza dimenticare che la presenza di stazione, aeroporto e autostrada la rendono facilmente raggiungibile da ovunque. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani tornano le giornate FAI d'autunno, il grande evento che il Fondo per l'Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del paese. Il gruppo FAI Giovani di Trieste presenta Il viaggio del caffè, un percorso storico, culturale e artistico che approfondisce uno dei prodotti divenuti simbolo della città. Saranno aperte le porte di 6 aziende della filiera dislocate tra il Carso e la città. Ma sono tanti gli appuntamenti in regione, da Doberdò del Lago a Castiglione, Zoppola e Sequals nel Pordenonese, ancora da Cividale a Faedis a Manzano. L'elenco completo dei siti e gli orari sono pubblicati sul sito del FAI. Alle 10 al Duomo di Spilimbergo si presenta il restauro degli affreschi vitaleschi della Vorta e del ciclo dell'Antico Testamento, risalgono addirittura al 1350 e non è stato facile riuscire a intervenire preservando l'opera. Ad occuparsene per oltre 2 anni resta l'autore Stefano Tracanelli, che abbiamo sentito. Il grande ciclo vitalesco del Duomo di Spilimbergo ha avuto una lunghissima storia di decadimento, una lenta e inesorabile scomposizione della materia dovuta anche al naturale decorrere dei secoli. Tali eventi, assieme anche agli interventi non sempre adeguati a una buona conservazione, anche se svolti con buone intenzioni secondo la sapienza del tempo, hanno prodotto un notevole disordine conservativo e sacrificio dell'immagine. Mi riferisco ai vecchi restauri. Per il fruitore è sempre stata importante la chiarezza del messaggio figurativo, per cui l'opera sono state riservate nel corso dei tempi molte attenzioni affinché l'immagine conservasse appieno il suo significato funzionale. Tuttavia le manutenzioni hanno alterato i brani figurativi originali, creando un disordine per cui l'affresco trecentesco ci è pervenuto contaminato e alterato rispetto alla sua integrità originale. Prima di ogni intervento conservativo sull'opera è necessario riconoscere, oltre alla tecnica artistica, le patologie presenti, la storia remota e recente delle manutenzioni e l'inquadramento storico-artistico. Concorrere alla comprensione delle vicende dell'affresco di Spilimbergo sono stati di fondamentale importanza gli archivi fotografici. La loro consultazione ha permesso di conoscere la storia iconografica del dipinto nel suo svanire e riaffermarsi. Quanto tempo siete stati per restaurare questo capolavoro? Il tempo è stato abbastanza importante, nel senso che ci sono voluti 2 anni e mezzo per l'Antico Testamento. Il restauro è un'attività che è lenta per prassi. Donne in Nero, associazione friulana che si batte per i diritti delle donne, assieme a decine di altre associazioni e organizzazioni sindacali da tutto il Friuli Venezia Giulia, organizza una manifestazione per sostenere la libertà delle donne iraniane e la richiesta di democrazia del popolo di Teheran. L'appuntamento è alle 16.30 a Udine in piazza 20 settembre. Oggi e domani sono 2 giorni dedicati ai temi del lavoro, dove le aziende del territorio e le istituzioni daranno appuntamento a Città Fiere in piazza Chorondeau per un evento che unisce formazione e gaming. Alle 11.30 inizieranno i dibattiti, il primo verterà sul lavoro che cambia, nuove competenze, nuove professioni e opportunità. Alle 16 allenare le soft skills con il gaming, i videogiochi, con gli interventi di Cristian Vieri e Bernardo Corradi, fondatori di PLB, un progetto di formazione e intrattenimento per lo sviluppo professionale di giovani talenti nel mondo dei videogiochi, fondata dai 2 ex calciatori azzurri. E allora parliamo di sport. Domani in campo l'Udinese di Sottil, friulani a Roma contro la Lazio alle 15 allo stadio Olimpico. Bianconeri e biancocelesti appaiati a quota 20 in classifica, 3 punti dietro la capolista Napoli. Davanti confermati Beto ed Eulofeu, il catalano finora è stato l'uomo in più dell'Udinese, lo ha sentito Sebastiano Franco. Finalmente, tra virgolette, sei il leader di questa squadra, tutti ti riconoscono questo ruolo, te lo senti addosso? Sì, lo sento perché è una responsabilità. Era una responsabilità avere questa maglia, essere in questo club, in questa società. So che sono un giocatore molto importante e voglio far crescere a ogni compagno e a questa società per diventare meglio. Questo vuol dire che io come giocatore, come avere questa responsabilità, sto a far crescere una società molto importante che già è l'Udinese. Barcellona e Milan sono il passato, a 28 anni il presente di Gerard Eulofeu e l'Udinese, in campionato 6 assist e 1 gol, quello che ha permesso la rimonta con l'Atalanta, dopo l'infortunio al ginocchio 2 anni fa, finalmente protagonista in una squadra dove l'obiettivo non è più soltanto la salvezza. Si saprà a fine stagione. Questo è quello che non voglio sapere, perché a me il futuro non mi importa, mi importa il presente. Il presente è dove si crea la mentalità e dove si crea gli abiti per vincere questa domenica a Roma. Dopo il futuro, la conseguenza arriva dopo. Se si guarda all'Europa, la sfida con la Lazio diventa così uno scontro diretto. Cosa ha portato Sottil? Portato molto carattere, molta voglia, già lo vedete ogni partita, noi lo vediamo ogni giorno, ogni allenamento, e tutti al completo, si fa una squadra da giovani sperimentati che vanno molto forte, fanno soffrire tanto all'avversario che incontro. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora il calcio, oggi alle 12 la Triestina presenta il suo nuovo allenatore Massimo Pavanel, già mister degli Alabardati nella stagione 18-19 all'inizio di quella successiva. Per la Triestina si tratta del 30° cambio in panchina nelle ultime 13 stagioni. Pavanel sarà la guida della Triestina Rocco domani contro l'Albino Leffa alle 14.30. In campo invece lunedì a Mantova il Pordenone capolista. Nella giornata del record di Filippo Ganna, argento per il Bugliese, Jonathan Milan ai mondiali di ciclismo su pista, specialità inseguimento. Nella rassegna iridata di Parigi, Ganna ha dominato facendo registrare il nuovo primato assoluto, 3 minuti 59 secondi 636 millesimi, a una media di 60,091 km orari, mentre il friulano più giovane chiude al secondo posto in 4 minuti e 3 secondi 790 millesimi, quasi 5 secondi più veloce del portoghese Oliveira, terzo. Per Milan un po' di delusione, un giorno la maglia iridata ha detto sarà mia. Il basket torna in campo stasera alla Pallacanestro Trieste, appuntamento alle 20 all'Allianz Dome, con iniziative da parte della società per aumentare il numero di spettatori nelle prossime due partite casalinghe dopo un inizio con due sconfitte e un calendario molto difficile. Avversario la temibile Reyer Venezia, che ha vinto due volte in precampionato proprio contro i biancorossi di Legovic. L'allenatore triestino è consapevole delle difficoltà della squadra, ma è fiducioso dopo l'ottima prestazione di Bologna della scorsa settimana. Conosciamo la Reyer Venezia per averla affrontata già due volte nel corso del precampionato, è sicuramente una squadra molto completa in ogni reparto, che fa della grande forza in post basso un loro punto di riferimento, con giocatori del calibro di Watt, Willis, Tessitori, ma anche lo stesso Brooks, sfruttato anche da numero 3, tiratori del calibro di Bramos, ma anche di un talento diffuso nelle guardie, che sicuramente sanno gestire momenti importanti della partita e creare e finalizzare da situazioni del pick and roll. Da parte nostra la parola che abbiamo usato in questa settimana è sicuramente quella di confermare quanto abbiamo fatto a Bologna, con una partita gagliarda, con un atteggiamento sicuramente soddisfacente, anche se non è stato sufficiente per portare a casa la prima vittoria. Quindi vogliamo confermare il modo di stare sul parquet. Ovviamente ci saranno degli accorgiamenti tecnico e tattici che la preparazione di una partita come questa contro un'avversaria molto preparata come Venezia richiede. Però dopo una settimana di allenamenti sicuramente positivi siamo pronti ad affrontare questa sfida. Alle 20 al Palagesteco Cividale ospita Ravenna per il torneo di A2. La squadra di Pillastrini cerca la seconda vittoria in casa. Tra gli obiettivi del coach, riuscire ad alzare il ritmo grazie ai mezzi lunghi che Ravenna potrebbe subire particolarmente. Tra i romagnoli da tenere sotto controllo il veterano Musso. Pallanuoto, sconfitta per Trieste nella seconda giornata del gruppo D del primo turno di qualificazione di Eurocup. La squadra giuliana ha perso 11-8 contro la Stella Rossa, senza la Stella Inaba. Acciaccato gli avverdati reggono lo stesso contro i serbi grazie anche ai 4 gol di Petronio. Trieste tornerà in vasca già oggi per un doppio turno contro l'Apollon Smirnis stamattina alle 9:30 e contro il Cosice alle 19:10. Sulla carta due squadre meno competitive del gruppo, un'occasione da non perdere per mettere in cassaforte la qualificazione al turno successivo. Inizia con un successo il girone A della Coppa Italia di Serie 1 femminile per la Pallanuoto Trieste. Le triestine hanno battuto la Florenzia per 5-8, una vittoria che le orchette hanno costruito nella prima parte di gara, quando si sono portate anche sul più 5, due le reti per Klatowski. Qualche appuntamento all'aria aperta in regione oggi: nel Borgo, nel Parco delle Fonti di Torrate a Chions, nel Pordenonese, Sexto Unplugged, presenza Convergenze, una giornata costellata di musica, arte, natura e temi ambientali. Gli orari dalle 14, accessibile l'area del Borgo per chi volesse noleggiare gratuitamente delle bici per scoprire la vasta area del Parco delle Fonti di Torrate. Dalle 14 fino alle 22 è possibile anche accedere alla torre medievale delle Sbrogliavacca, un sito raramente aperto al pubblico. Oltre 500 musicisti appartenenti a 20 bande della regione parteciperanno oggi alla tradizionale rassegna bandistica regionale Ambima FVG. Il raduno musicale, giunto quest'anno alla 43esima edizione, si realizzerà nel borgo antico di Valvasone. Alle 15:30 le bande musicali sfileranno lungo 3 itinerari attraverso il centro storico del borgo per riunirsi in piazza Castello alla fine della sfilata. Il momento centrale della manifestazione è alle 17:30 in piazza Castello, appunto, dove avrà luogo il tradizionale concertone. Riscoprire con giochi e musica un angolo storico della città di Udine, il giardino Ricasoli, nel quale hanno giocato generazioni di bambini. A partire dalle 14:30 nell'area verde si terrà un escape garden con giochi di strada e attività di svago con il Ludobus. Infine si esibiranno in concerto gli Ottoni del Conservatorio Tomadini. Dopo il primo positivo fine settimana, la Proloco di Valle di Soffumbergo in comune di Faedis è pronta ad accogliere visitatori al secondo weekend della Festa delle Castagne e del Miele di Castagno. I chioschi aprono alle 12, alle 14:30 è in programma una passeggiata guidata nel bosco con raccolta gratuita delle castagne. Il Trittico Ensemble 2022 si esibisce oggi a Udine al Teatro a San Giorgio alle 18, diretto da Alia Clements. E proseguiamo con gli appuntamenti culturali: debutta Monfalcone al Comunale alle 18:30, il recital musicale Donne di Confine di e con Bruna Braidotti, accompagnata da quartetto di flautiste ensemble Euterpe, sulla storia delle donne che hanno vissuto a ridosso dei confini attraversandone le vicende belliche e geopolitiche. A Trieste Hangar Teatri apre la rassegna teatrale con un ospite d'eccezione, il premio UBU Roberto Latini, in scena sabato alle 20:30 e domani alle 17:00 con il suo Cantico dei Cantici. Si rinnova l'appuntamento con serate di risate, la rassegna di teatro amatoriale Marileng. Quattro gli spettacoli del cartellone. Si comincia oggi con il supporto della Società Filologica Friulana e il patrocinio dell'Arlef, il sipario del Candoni di Tolmezzo. Su questa 11ª edizione si apre oggi con la Famea Adams, la magia del frico, proposta dalla Compagnia Teatrale di Ragogna. Siamo alla rassegna stampa, la prima pagina del Piccolo propone come notizia centrale l'appello del sistema scientifico al Ministero, a cui sono dedicate le due pagine di apertura del capocronaca. Il caro energia preoccupa enti di ricerca e università, costi su dell'80% all'Ateneo, 1 milione in più all'area, sincrotrone da 7 a 26 milioni. Tra gli altri richiamo in prima la notizia che è stato sospeso il volo Ryanair da Ronchi a Bruxelles fino alla primavera a causa del caro carburanti. Sempre in cronaca l'intervista all'ammiraglio Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di Porto, che si congeda da Trieste per passare al Comando Generale delle Capitanerie al Ministero delle Infrastrutture. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre con la cerimonia trasfrontaliera su cui poc'anzi vi abbiamo proposto un servizio del nostro GR, cioè la passerella sull'Isonzo debutta con i due sindaci. Ziberna e Miklavic dicono: qui si collabora, c'è grande amicizia fra le nostre città. Notizia centrale in prima pagina: scoprì dei reperti sottomarini ma il premio non arrivò. Ora il Ministero dovrà pagare 250.000 euro. Vittoria al TAR per il pescatore gradese Marco Tognon, a distanza di 22 anni dal ritrovamento di anfore preromane. L'apertura del fascicolo di Gorizia è dedicata alla cronaca con la notizia di furti notturni in tre attività del centro. Quella di Monfalcone sulla promozione della cittadina a comune turistico. Il Messaggero Veneto e il Quotidiano Friulano è in primo piano la fotonotizia di Ganna e Milan abbracciati sul podio di Parigi con le medaglie in bella mostra. Milan argento mondiale, il titolo di apertura però è ancora sui rincari, le bollette dell'acqua, rincari fino al 5%, nuove tariffe per far fronte appunto ai rincari dell'energia. Nella fascia della cronaca, Udine, quattro parrocchie al prete delle campane rumorose. A Tolmezzo c'è un batterio, in due frazioni acqua non potabile. Nel Collinare la giunta di San Daniele cancella gli aumenti delle mense, la politica romana. Il friulano Rizzetto, l'unico in corsa per un posto nella squadra Meloni, l'ex 5 Stelle, appunto un posto di sottosegretario al Ministero del Lavoro. Nelle pagine interne la foto della rissa di Piazza Libertà alle 4:30 del mattino. Nell'edizione di Pordenone diversa l'apertura che sugli accertamenti arretrati tari, controlli su chi evade. Le irregolarità emergono con la raccolta porta a porta, la cronaca: rubano il bancomat a due anziani, due i denunciati. Il Gazzettino, edizione destra tagliamento, titola influenza, i vaccini sono in ritardo, la regione aveva annunciato la campagna per il 12 ottobre ma i sieri non sono arrivati, medici subissati di richieste dei pazienti più anziani, Riccardi piccolo disguido. La notizia è sui cantieri, scuole malandate, lavori milionari. La polemica, l'Ucraina attacca Danieli, aiuta i russi. C'è spazio anche per una notizia di sport ed economia, Pordenone calcio, cessione più vicina, investitori pronti, entro i 15 giorni incontro in città, da capire se per entrare in società oppure per rilevarla completamente. Anche il Gazzettino, edizione Friuli Centrale, dà spazio all'emergenza rissa tra baby gang, spintoni e urla in pieno centro, zuffa tra ragazzini sul terrapieno di Piazza Libertà. Sempre nella cronaca, Contarena, un mese per il piano, il tribunale ha ammesso la società al concordato, concessi 30 giorni per elaborare la strategia. Comincia a prendere forma la terza corsia nel cantiere del primo sublotto del secondo lotto Alvisopoli-Portogruaro in A4 nella notte. Questa notte, tra sabato e domenica, l'intervento riguarderà il sedime autostradale tra il cavalcavia di Casermette e il sottopasso della linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro. L'attività necessiterà della chiusura del tratto tra il nodo di Portogruaro e la Tesana in entrambe le direttrici di marcia tra le 21 di oggi, sabato 15 ottobre, e le 7 di domenica. Il Comune di Tolmezzo ha emanato un'ordinanza in cui invita alla bollitura dell'acqua per uso alimentare gli utenti del servizio idrico delle frazioni di Imponzo e Cadunea. Da un controllo effettuato dai tecnici della SUFC su un campione di acqua prelevata dalla fontana pubblica di Imponzo, infatti è emerso il mancato rispetto di alcuni parametri di potabilità. Nei prossimi giorni verranno ripetute le analisi, non appena le condizioni lo permetteranno, l'ordinanza verrà revocata. La SUGI comunica che, a seguito dell'intervento per l'installazione della gru a servizio del nuovo padiglione servizi interaziendale a Cattinara a Trieste, nelle giornate di oggi e domani via Valdoni sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale. L'accesso al polo cardiologico sarà garantito esclusivamente attraverso il percorso pedonale esterno dall'ingresso principale di Cattinara. Ancora un po' di appuntamenti alle 17 a Trieste, presentazione del nuovo volume di Aldo Nove, sonetti nel giorno di Quarzo, alla Società Canottieri Adria, Pontile, Istria 2. Sempre a Trieste, Wasim Dahmash presenta Memorie di Gerusalemme della scrittrice palestinese Sirin Husseini Shaid alla libreria Lovat alle 17.30. A Casarsa della Delizia alle 18, a Casa Colussi, Voce del Tempo, il nuovo libro del Centro Studi Pasolini, accende i riflettori su Cesare Bortolotto, che fu tra i fondatori dell'Accademia di Lenga Friulana e grande amico di Pasolini. E Pasolini al centro anche dell'appuntamento con Vocalia al Teatro Verdi di Maniago, con Lira, viaggio musicale nel Friulano di Pasolini, con la vocalist Elsa Martin, accompagnata al pianoforte da Stefano Battaglia. L'appuntamento è alle 15. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con la nuova stagione di Biblos. Parliamo di mare con due autori che hanno eletto il proprio mare a vero protagonista delle ultime opere. Lorenza Stroppa con il romanzo Cosa mi dice il mare e Francesco Musolino con l'opera noir Mare mosso. Continueremo poi con la storia di un ritrovamento letterario importante, un edito di Louisa May Alcott, la celeberrima autrice di Piccole donne, ritrovato da Daniela Daniele, americanista, massima esperta della Alcott in Italia e docente dell'Università di Udine. Il nostro giornale si chiude qui da Andrea Saule e Francesca Vigori, che lo hanno redatto e condotto, Tommaso Vinoni e Giampaolo Zucchi, che hanno curato la parte tecnica, Valentina Veneruso in redazione. Grazie per la cortese attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.